Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Buoni o cattivi, che cosa funziona di più in pubblicità? Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali. Oggi a Essere e Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei, facciamo il giro del mondo in 500 spot. È il viaggio che propone ogni anno un evento che è ormai diventato un cult per i tecnici e gli appassionati della comunicazione, la Notte dei Publivori, dedicata quest'anno proprio ai buoni e cattivi della pubblicità. Con Terre des Hommes, l'organizzazione internazionale impegnata nella difesa dei diritti dei bambini, andremo poi a scoprire le campagne pubblicitarie che più hanno tutelato l'immagine dei più piccoli e perché. Focus sui trend dedicato infine al re-commerce, quando riciclo, riuso e scambio fanno tendenza. Ma iniziamo come sempre dalle notizie e curiosità di questa settimana. Si terrà sabato 26 novembre in quasi 9.000 supermercati sparsi per il paese la 15ª giornata nazionale della colletta alimentare. Oltre 120.000 i volontari coinvolti per invitare a donare alimenti destinati a 1.400.000 poveri assistiti ogni giorno dalla Fondazione Banco Alimentare. Compie 40 anni il noto slogan L'Oréal «Perché io valgo». Ideato nel 1971 da una giovane pubblicitaria dell'agenzia americana McCann Erickson, lo slogan è entrato nel linguaggio comune come simbolo dell'emancipazione femminile. Per l'azienda cosmetica francese segnò il successo internazionale. Roma batte Milano come città dello shopping. La città eterna è la quinta città europea più amata dagli appassionati di shopping, secondo il Globe Shopper City Index. In cima alla classifica Londra, seguita da Parigi e Amsterdam. Solo undicesimo il capoluogo lombardo. Arriva la bottiglia di vino di carta. Debutterà sugli scaffali dei supermercati inglesi nel 2012. Facile smaltimento, peso ridotto, bassi costi di produzione, i punti forti dell'innovazione ecologica. Ma enologi e amanti della tradizione avvertono: i grandi vini resteranno sempre nella bottiglia di vetro. Un incontro tra arte, moda e archeologia. È la mostra che Roberto Capucci tiene fino al 18 marzo nel Museo Bresciano di Santa Giulia. Noto in tutto il mondo per i suoi vestiti, vere e proprie sculture di tessuto esposte alla Biennale di Venezia e nei musei di tutto il mondo, Capucci espone 31 creazioni e 10 bozzetti inediti tra i reperti archeologici del museo, dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. La borsa della spesa. Io sono la mamma, faccio l'insegnante. Se ho un desiderio? Certo, vorrei vivere in una casa moderna. Dopo l'ingresso, la camera da letto. Luminosa tutto il giorno, anche Luca, quando piove. Sai cosa potremmo fare in questa cameretta? Buttare giù il muro e fare un'enorme cabina armadio. Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte e al caffè. Buongiorno a chi non c'è. Figliolo, c'è una cosa che devo dirti. Non sono tuo padre. Sono tua madre. Buoni e cattivi, da sempre le due anime in pubblicità convivono, difficile dire che cosa funzioni di più. Ne abbiamo avuto un'idea con la Notte dei Publivori, dedicata quest'anno proprio a questo tema. Dalla pubblicità buonista ai grandi spot dove a vincere sono i cattivi. La tradizionale maratona notturna ha accompagnato gli appassionati che venerdì e sabato hanno riempito il Teatro degli Arcimboldi di Milano in un vero e proprio giro del mondo in 500 spot, da vedere come sempre tutti in una notte. 40 anni di spot da ricordare o da dimenticare per sempre. Nata 31 anni fa in Francia, la Notte dei Publivori riempie ogni anno